voce. Federica Fracassi legge Sillabari di Goffredo Parise. Nona puntata. Hotel. Un giorno d'inverno del 1943, un ragazzo di 13 anni arrivò in un paese di montagna di nome Asiago. In Italia c'era la guerra. Un piccolo treno fumoso impiegò molte ore per arrampicarsi nell'oscurità tra i monti e arrivare alla vetta. La stazione era buia e solo un lampione dipinto di scuro oscillava tra la nebbia. Il ragazzo era vestito con pantaloni alla zuava e un paltò nuovo di lana vegetale, pesante e fredda, che pungeva come una matassa di aghi. Aveva in mano una valigia cubica di fibra che la poca luce del lampione illuminava. L'ombra della valigia oscillava sulla neve molle e nerastra davanti alla stazione. Un uomo molto alto, 1,92 m, con una lunga pelliccia nera, ghette e un largo papillon blu a pallini bianchi, aspettava il ragazzo. Il ragazzo vide per prima cosa il papillon contro il bianco della camicia. L'uomo era un gerarca fascista, padre di un suo amico. Gli sorrise dall'alto, poggiò un bastone di malacca sul braccio piegato e fece un rapido saluto romano, una specie di elegante ciao politico. Poi gli diede un colpetto dietro la testa. Il ragazzo non vedeva il paese, non vedeva la strada, non vedeva nulla. C'era l'oscuramento, pareva che in montagna fosse ancora più rigido e profondo che in città. Si mantenne perciò camminando a contatto con la lunga pelliccia del suo accompagnatore, che falcava tra la neve sciolta con sicurezza, nonostante le lucidissime e sottili scarpe di vernice. Di tanto in tanto tirava fuori di tasca una piccola lampada, con il vetro dipinto di bianco, rosso e verde, e dirigeva quel fascio di luce minuscolo e a tre colori immediatamente davanti ai loro piedi, tra la neve sporca. Improvvisamente l'uomo si fermò e le sue scarpe scricchiolarono. Erano accanto a un muro e il ragazzo vide l'uomo sollevare dal muro una pesante coperta di lana, irrigidita dal gelo, dietro cui vide una porta a vetri sabbiati con una scritta: Hotel. Entrarono. C'era una donna biondastra che li accolse con inchini e sorrisi e la valigia fu deposta subito accanto a un banco. Una stufetta panciuta con piccole zampe mandava un filo di fumo. L'uomo spiegò al ragazzo che per quella settimana in cui era ospite in montagna avrebbe dormito in albergo. In casa non c'era posto. Erano arrivati un camerata con la moglie. «Questa sera mangerai e dormirai qui. È troppo tardi per venire a casa e poi tornare. C'è il coprifuoco. Franco ti aspetta, è molto ansioso di rivederti. Verrà a prenderti domattina». Gli diede un colpetto dietro la nuca e uscì. Le sue scarpe di vernice scricchiolarono ancora. La donna portò la valigia del ragazzo in una camera dal pavimento di legno bianchissimo, due letti bianchi e un servizio di porcellana per lavarsi, catino, brocca e un secchio per l'acqua sporca. Anche lì c'era una piccola stufa accesa che emanava un profumo di legna di montagna. La donna gli disse che tra poco avrebbe potuto scendere a pranzo. Fece un inchino e chiuse la porta dietro di sé. Il ragazzo si guardò intorno. Era la prima volta che dormiva in un hotel. Si chiese subito qual era il nome di quell'hotel, ma ricordò che sui vetri non c'era nessun nome. L'avrebbe chiesto più tardi. Intanto aprì la valigia, era chiusa a chiave e con uno spago, e provò a disporre la roba nei cassetti. Sul marmo del comò appoggiò i libri, i quaderni, le penne, i pennini e un calamaio portatile di bachelite. «Sono in un hotel», pensò con grandissima soddisfazione. «Sono solo e in un hotel». E camminò in su e in giù per la stanza, sulle punte dei piedi, per non far udire il rumore dei propri passi al piano inferiore. Aprì la porta e guardò il numero della stanza. Blu, su un medaglione di metallo smaltato di bianco. Era il numero 3. Esaminò attentamente la stanza. In un cassetto trovò un vecchissimo libro da messa con una copertina di madreperla Dentro c'era una stella alpina e solo dopo un poco si accorse di una cosa misteriosa. I due letti non avevano il lenzuolo superiore, c'era soltanto un grande piumino bianco piegato a metà e posto di traverso il letto. Come avrebbe fatto a dormire? Per non disfare il letto provò a pensarci. Mi avvolgerò dentro il piumino, però è corto e i piedi usciranno. Questa novità assoluta dell'hotel lo preoccupò. Lo preoccupò soprattutto il fatto che avrebbe dovuto chiedere spiegazioni, mostrando così di non essere mai stato in un hotel. Non avrebbe chiesto nessuna spiegazione e si sarebbe in qualche modo arrangiato. Così pensando scese le scale di legno bianco e profumato di sapone. Nell'entrata vide una grande porta vetrata che non aveva mai visto prima. Dava in una piccola sala da pranzo con alcuni tavoli, due dei quali preparati. Gli altri erano coperti da una tovaglia di panno verde. A uno dei due tavoli apparecchiati sedeva un uomo. La signora biondastra apparve da una porta che doveva portare in una cucina e lo fece accomodare con molti inchini. Parlava male l'italiano o forse parlava un dialetto che lui non conosceva. Gli chiese se voleva vino e il ragazzo per la prima volta nella sua vita disse «un quarto di vino rosso». C'era del pane tedesco, nero e duro, sul tavolo, che piaceva molto al ragazzo. Ma ce n'erano due fette molto sottili e questo gli dispiacque perché voleva portarsene a letto un po' per rosicchiare durante la notte. La signora apparve con un vassoio su cui stavano due scodelle che posò prima davanti a lui e poi davanti all'uomo. Era polenta e latte. In un piattino a parte c'era della marmellata. Pochissima. Mangiando, il latte era fresco, di mucca. Il ragazzo non l'aveva più visto da molti mesi e gli ricordò l'infanzia. Guardò l'uomo, che pareva non mangiare. Anche l'uomo lo guardò e sorrise. Aveva occhi molto lunghi all'insù, di un colore chiaro e profondo. Anche le sopracciglia nerissime erano lunghe, sottili, e andavano in su come dipinte verso le orecchie a punta. I capelli erano rossicci, ondulati, e il ragazzo chissà perché provò un po' di paura. Era quello che si dice un bell'uomo elegante. Doveva essere alto. Era vestito da città, ma sembrava un attore del cinema. Il ragazzo pensò al film L'amaro tè del generale Yen, che aveva visto 3 volte. Dopo il latte e la polenta, la signora portò il formaggio fresco e una specie di pappa di cavoli, poi mele cotte. Il ragazzo non bevette il vino, perché ricordava di essere stato male per aver bevuto del vino insieme al latte. Nella saletta illuminata pochissimo da una lampadina giallastra c'era un grande silenzio. Si udiva battere il grande orologio rotondo appeso al muro, da cui a un certo punto uscì fuori un cuculo che gridò 8 volte cucù. Il ragazzo, che non aveva mai visto un orologio a cucù, si spaventò e saltò dalla sedia in piedi mentre il cuculo continuava con i suoi cucù nella stanza bianca e vuota. Il ragazzo aveva il cuore che batteva fortissimo nel petto. Si sedette un'altra volta, pallido, e l'uomo gli sorrise. «Un orologio a cucù», disse, sempre sorridendo. E il ragazzo capì che anche quello era straniero. L'uomo parve leggere il suo pensiero. Si alzò lievemente dal tavolo, fece un inchino e «Mi chiamo signor Crona», disse. Si alzò dal tavolo e si avvicinò con una tavoletta di cioccolato svizzero che offrì al ragazzo. Il ragazzo guardò il cioccolato, Lindt, era al latte e gli venne l'acquolina in bocca. Ne prese un cubetto. «Puoi tenere tutta», disse l'uomo sempre sorridendo. Era un bellissimo sorriso da attore. Il ragazzo ringraziò e disse «È straniero?» L'uomo ebbe un momento, pochi secondi di pausa, durante il quale il sorriso sparì e subito ricomparve come capita con certe piccole nubi sulla luna. «Sono baltico», disse. Il ragazzo non capì assolutamente quale fosse quel paese né dove. La parola baltico e la vocale A accentuata come se fosse una O, baltico, da una voce profonda, lo portarono fuori strada. Credette di capire e pensò «è barone». In quel momento apparve la padrona dell'hotel, che scambiò alcune frasi in tedesco con l'uomo e poi, in atteggiamento di inchino, con una mano chiusa dentro l'altra, disse al ragazzo: «Il signor Crona è in viaggio, è arrivato con il suo treno e non abbiamo stanze per la notte. Se a lei non dispiace, dormirà nel letto accanto al suo, almeno per questa notte, per piacere». Il ragazzo fu subito molto contrariato e impaurito. La stanza era sua. Balbettò qualcosa, il nome del gerarca, guardò il signor Crona che gli sorrideva fumando a grandi boccate una sigaretta infilata in un bocchino, finì col dire: «Va bene». La signora si inchinò e disse: «Grazie, grazie». Durante la notte il ragazzo dormì poco. Si svegliava in continuazione, in quei risvegli vedeva la brace della sigaretta del signor Crona che ardeva e sfrigolava nel buio. Quando capitava che il ragazzo era sveglio, il signor Crona parlava nell'oscurità con la sua voce profonda e bella. Il ragazzo sognò. 2 o 3 volte si svegliò perché il signor Crona, che gli aveva insegnato come usare il piumino bianco, lo copriva e lo rimboccava. 1'altra volta si svegliò e vide nei riflessi della stufa gli occhi lunghi, chiari e luminosi dell'uomo, come quelli di un gatto nel buio. 3 volte nel sonno udì il signor Crona riempire la stufa, ma quasi in silenzio. Soprattutto udiva lo sfrigolio incessante della sigaretta, sentiva l'odore profumato del fumo, uno strano fumo che sapeva di erbe, udiva il colpetto del bocchino sul posacenere quando la sigaretta era finita, il fruscio del fiammifero per accenderne un'altra. Forse aveva parlato, si trovò con la luce accesa proprio nel momento in cui aveva sete, e il signor Crona in pigiama di seta con un bicchiere d'acqua in mano, sorridente accanto a lui, con il bocchino tra i denti bianchissimi. «Ho la febbre», disse il ragazzo. Il signor Crona appoggiò una bella e lunga mano fresca e profumata di sapone sulla sua fronte, poi cavò un termometro da una piccola sacca del ragazzo, c'erano anche dei soldi, molto pochi, e gli fece provare la febbre. Guardò il termometro, lo rassicurò, aprì un poco la finestra, lo coprì bene e rimase seduto accanto a lui sul letto. Forse il ragazzo gli aveva chiesto cosa vuol dire Baltico. Udì il signor Crona che diceva: «Il grande mare Baltico», dentro una nube di fumo, e ripiombò nel sonno. Il giorno dopo c'era un po' di sole. Il ragazzo non vide il signor Crona, si era già alzato, vestito e portata via la sua valigia di cinghiale. Aveva anche rifatto il letto, era come non fosse mai entrato nella stanza. Il ragazzo incontrò il suo compagno di scuola tutto preso in una crisi religiosa. «Dies ire, dies illa, solvet seclum cum favilla», ripeteva il ragazzo, e il ragazzo si annoiò. E vide anche il padre, a cui raccontò del signor Crona. L'uomo altissimo si infuriò, disse anche una bestemmia e andò a fare una scenata alla padrona dell'albergo. I 2 amici andarono a passeggiare sulla neve sotto un cielo grigiastro e udirono dei colpi d'arma da fuoco. Tornarono che era già buio. Il ragazzo non si figurava così la montagna d'inverno, aveva già voglia di partire. Cenarono presto, il padre lo accompagnò all'albergo per sincerarsi che la stanza fosse solo per lui e la padrona lo guardò molto male. Il gerarca uscì nella notte ed egli sedette in sala da pranzo guardando l'orologio, aspettando il signor Crona. Egli non era al corrente di nulla, si stupì di non vederlo e delle brutte occhiate della padrona. Tornò in entrata e chiese notizie. La donna lo guardò a lungo con odio. «Signor Crona è andato via», disse. Il ragazzo non capiva. «Dove?» domandò debolmente. «Andato via, non sapere dove, lontano, lontano», disse in fretta, facendo un gesto con la mano come per allontanare il fumo, e disse quasi sputando: «Spia!» Il ragazzo si sentì debolissimo e coperto di vergogna. Ora aveva capito. In quel momento si udirono 3 colpi d'arma da fuoco a brevissima distanza uno dall'altro, uno dopo l'altro, limpidi nella notte, lì, fuori dall'hotel. Subito dopo uno scalpiccio leggero di gatto nella neve. Nessuno dei 2 si mosse. La donna, sempre guardando il ragazzo, accese una sigaretta con le dita che tremavano, con dei fiammiferi da cucina, a bassissima voce ripeté: «Spia!». Rimasero così alcuni minuti, fino a quando un uomo anziano in divisa aprì di colpo la porta vetri. Il ragazzo vide la scritta «Hotel» e disse con voce asmatica: «Hanno sparato al questore. Apra, tenga aperta la porta», e uscì. Il ragazzo lo seguì. Vide nel buio della piazza delle luci vaganti, torce elettriche e ombre che si muovevano. La luna andava e veniva correndo tra le nubi, sotto i piccoli fari delle lampade tascabili, disteso nella neve, con le braccia e le mani spalancate, il ragazzo vide l'uomo alto, il padre del suo amico. Lo riconobbe subito dal papillon. Ingenuità. Il primo agosto una donna di 40 anni, dal volto molto ovale e bello, di suora buddista, ricevette un espresso. Viveva sola da parecchio tempo insieme a vecchie lettere e fotografie e non riceveva quasi mai posta. Era del marito, che non vedeva mai, ma che si preoccupava di lei ogni tanto. Nella lettera c'era un assegno e alcune raccomandazioni. Di usare quel denaro come meglio credeva e secondo necessità. La donna lavorava con molto scrupolo e attenzione in un ufficio, ma guadagnava pochissimo e si vergognava a chiedere aumenti. Se possibile, di usarli per fare una vacanza, al mare o in montagna, dove aveva voglia. Suggeriva però, data l'estate piena, di non prendere troppi treni e aerei, perché la conosceva bene e sapeva che si sarebbe un poco spaurita e immalinconita a prendere treni e aerei come fanno invece allegramente tutti coloro che hanno voglia di villeggiature e di viaggi. Suggeriva di non stancarsi troppo e che tutto sommato l'idea migliore era forse quella di frequentare ogni giorno la piscina dell'hotel Hilton, che era a pochi passi da casa sua. La incitava inoltre a comprarsi dei vestiti carini, a pettinarsi bene, a scegliere costumi a due pezzi fatti ad uncinetto. Le raccomandava infine di non badare a spese, di fare colazione al buffet della piscina, di mangiare, di nuotare, di prendere il sole e di giocare a tennis verso sera, quando non era più tanto caldo e il piacere e lo sforzo del tennis che lei tanto amava da ragazza avrebbero fatto dimenticare l'ora calma e triste del crepuscolo, che porta sempre d'estate, in città e per chi è solo, non buoni pensieri. Questo non era naturalmente scritto nella lettera, ma leggendo la donna fu quasi sul punto di afferrarlo. Ma non accadde e un poco di buon umore alleviò la sua solitudine. Fu contenta che il marito si ricordasse di lei e nell'aria infuocata di quel giorno, nel silenzio della città quasi deserta, sorrise, mostrando per un momento i suoi bei denti sani, convessi e della grandezza giusta. Le sue ferie erano cominciate proprio quel giorno. Rifletté su quanto c'era scritto nella lettera del marito, sulle raccomandazioni di spendere quei soldi secondo necessità. Le sue necessità erano molte, perché nonostante il lavoro era povera. Non il volto, né l'atteggiamento, né il modo di muoversi e di parlare, era timida e di ottima educazione e di grande cuore, ma inespresso, poteva far capire che era povera. Ma lo stesso lo era. «Vedi, non è cattivo», disse fra sé, e ancora una volta sorrise all'idea che l'uomo lontano, che aveva tanto amato e rivedeva simile nel corpo più a un bambino che a un uomo, la ricordava e anche lui la pensava e si occupava di lei. Con questo pensiero gradevole e in quel suo modo di camminare, con la testa bassa e distratto da nebbie e piccole nubi mentali che offuscavano ogni cosa, andò in camera da letto e guardò nell'armadio i vestiti che le rimanevano. Pensò che avrebbe dovuto acquistare un paio di scarpe per l'autunno e l'inverno, i costumi da bagno da lui raccomandati, non capiva quali, a uncinetto ma come, altre scarpe con la suola di corda, ma erano proprio necessarie, non aveva ancora i sandali indiani per l'estate. Così, riflettendo, cominciò a fare un poco di confusione, ma ad organizzare mentalmente la sua villeggiatura per tutto il mese di agosto alla piscina dell'hotel. Il giorno dopo, 2 agosto, andò a comprare il costume da bagno, ma non trovò quello a uncinetto. Poi andò a comprare una scatola di palle da tennis e, vestita da tennis, andò alla piscina dell'Hilton. Era come la ricordava, elegante, un po' esotica, molto cara. Mangiò subito un gelato, Poi si distese al sole su un materassino soffice e candido, a piccole righe gialle, profumato di lavanda. Si addormentò. Fu svegliata dal calore del sole sulla pelle e, siccome aveva molto sudato, prima andò a fare una doccia, poi si gettò in piscina. Nuotava bene, con molta attenzione ed energia, come faceva tutte le altre cose della sua vita. L'aria era scottante. Si asciugò al sole guardando piccole palme e altre sconosciute piante tropicali, di là dai bordi della piscina, tra minuscoli prati verdi a collina che confinavano con il cielo color arancio e su cui giravano degli spruzzatori. Si sentiva bene e, in modo vago ma familiare, sentiva intorno a sé come una protezione pulita e profumata di sapone che pareva scendere dalle vetrate del grattacielo sovrastante, dai baffuti bagnini vestiti di bianco, dal ragazzo in livrea che girava intorno alla piscina sollevando un cartello con un nome, Mr. Loeb, dall'odore dell'olio da sole che una donna con capelli quasi bianchi, ciglia e sopracciglia bianche, andava spalmando sulla pelle. Parlava in inglese con un giovanotto dal pelo ricciutissimo, forse uno spagnolo, che stava disteso sul bordo della piscina, e lei seguì la conversazione. Parlavano di linee aeree. Tuffandosi e stando al sole, rimase così circa 3 ore, poi andò al buffet. Si sedette a un piccolo tavolo, ma fu subito sopraffatta dalla timidezza appena il cameriere si avvicinò. Non riuscì a parlare per alcuni secondi. Timidamente, ma in modo che poteva sembrare quasi seccato o selvatico, chiese la lista e, così facendo, appena ebbe la lista, si trovò sprofondata in un mare di confusione. Il cameriere aspettava. Solo dopo un po' il cameriere disse quello che poteva far arrivare dalla cucina e quello che lei stessa avrebbe potuto scegliere direttamente al buffet. La donna pensò che il cameriere fosse seccato della sua timidezza e selvatichezza, ma il cameriere era soltanto impaziente. Finalmente decise di andare lei stessa al buffet e si scusò molto. Il cameriere pensò che fosse povera o avara e non timida e irresoluta, ma improvvisamente parve intuirlo e, con un sorriso simpatico che ridiede fiducia alla donna, le indicò il buffet. «Forse preferisce scegliere lei dal buffet?» chiese. «Come, scusi?» disse la donna nel pieno della confusione. Fu in quel momento che il cameriere la capì e sorrise ancora. Ripeté l'invito e, quando lei si alzò, l'aiutò a togliere la sedia di sotto. Di nuovo sola e rinfrancata, la donna girò a lungo intorno al buffet. Senza sapersi decidere e senza distinguere bene i cibi, a causa della fretta che da sempre la timidezza e l'ingenuità troppo a lungo protratta, scelse prosciutto e melone e stava per affondare la paletta nelle melanzane quando il cameriere le fece un cenno silenzioso verso il roast beef in gelatina. La donna prese 2 fette di roast beef, insalata russa, e andò al tavolo. Al cameriere chiese una birra. Mangiò con attenzione ed energia il piatto freddo, poi si alzò ed entrò nella hall in direzione del ricevimento. Poiché era ancora una bella e strana donna, con movimenti molto originali e segreti del corpo, 2 uomini e una donna, una americana colorata e immobile, la guardarono. Al ricevimento chiese se c'era qualcuno, preferibilmente una signora tra i clienti, disposta a giocare a tennis con lei nel tardo pomeriggio. L'impiegato chiese il suo nome, lo annotò e disse che l'avrebbe fatta avvertire entro le 5. C'era forse una francese. La donna tornò al suo materassino, sentendosi bene e un poco anestetizzata dalla birra, si addormentò. Sognò una spiaggia dell'Adriatico, con molti ombrelloni e patini vuoti sulla battima, un cielo non più di agosto ma quasi di ottobre e un piccolo aereo che volteggiava su quella solitudine sventolando dietro di sé la scritta «Thank you». Ancora una volta la svegliò il calore del sole. Ma non era più calore, era bruciore su tutto il corpo. Si accorse di essere un po' gonfia e, quando si alzò per buttarsi in acqua, sentì come scricchiolare la pelle. Tutto questo lo sentì, ma, come spesso quasi sempre accadeva, lo dimenticò nell'istante in cui lo sentì. Si tuffò e si sentì subito meglio. Però il gonfiore rimaneva e la donna ogni tanto e con distrazione lo guardava. Verso le 5 il ragazzo in livrea le portò un biglietto del ricevimento. Madame Rose la aspettava nella hall alle 7 per una partita a tennis. Il bruciore aumentava ma sempre avvertendolo in modo distratto, la donna si tuffò ancora e le parve di stare molto meglio. Quando usciva, ricominciava a bruciare. Avvicinandosi agli spruzzatori sul prato, sentì che da quell'acqua veniva come un'aria umida e fredda e si lasciò bagnare dagli spruzzi. Alle 7 si presentò nella hall, vestita da tennis, con racchetta e palle nuove, e conobbe la signora Rose. Era una francese della sua stessa età, i capelli tinti di rosso e accuratamente truccata, che abitava tra Nuova York e Nizza. Il marito, assente, si occupava di importazione di datteri e di conserve alimentari. Anche la donna avrebbe voluto parlare del marito, ma non lo fece. Le sembrava di dire una bugia. Giocarono a tennis. La donna fu molto contenta di fare una conoscenza e si diedero appuntamento per il giorno dopo. Poi la donna uscì dall'albergo e andò a casa a piedi, stanca e bruciante. Mangiò un po' di formaggio con del pane e una pesca, fece 2 o 3 docce e si mise a letto. Durante la notte si svegliò a causa del bruciore. Addormentata vide appena la luna piena sbirciandola dai muri caldi della casa. Inzuppò un asciugamano e se lo appoggiò sul corpo. Per il resto della notte ebbe incubi dove c'entrava sempre la luna, però a cortina che illuminava prati lucenti di neve, ondulati e ghiacciati. Al risveglio era tardi, già alle 9:30, e lei pensava di essere in piscina fin dalle 8. Vide che il gonfiore era esteso in tutto il corpo e anche in faccia, con vesciche e bolle già aperte. Borbottò contro la sua distrazione. Si vestì con grande fatica e dolore, andò in farmacia dove il medico, impressionato, le diede un tubetto di Foil, che è per le scottature serie. La donna tornò a casa con fiammate di mal di testa. Si mise sul letto e da lì telefonò alla signora Rose, scusandosi per il pomeriggio. La signora Rose si mostrò molto stupita che non avesse usato crema per il sole e spiacente, e disse che sarebbe rimasta in Italia ancora 15 giorni, l'avrebbe rivista al tennis con molto piacere. Anche questa cordialità alleviò la sempre diffusa solitudine della donna e perfino il bruciore. Le piaceva tanto quella piscina, il buffet, il materassino, gli annaffiatoi automatici e iridati, l'odore dell'albergo e dell'olio da sole che non aveva usato. Ma non associò il profumo dell'olio da sole alla sua utilità. Passarono così alcuni giorni, durante i quali la donna si trascinò a un caffè vicino con i suoi libri e grammatiche inglesi. Pensava di non sapere l'inglese in modo perfetto e studiava. Studiava sempre qualcosa che pensava di non sapere in modo perfetto, ma era stanca e aveva mal di testa. In realtà aveva la febbre e non lo sapeva, né aveva mai pensato di provarla. Qualche volta andò nel centro della città, ma non si sentiva bene. I negozi erano quasi tutti chiusi per ferie. Non vide i costumi da bagno fatti ad uncinetto, né le scarpe di corda, né altro. Vide un vestito di piqué bianco, a piccole righe celesti, e un collo di maglietta di cotone blu. Accanto al vestito erano esposti 2 braccialetti di finto avorio, bianchi e celesti. Pensò e ripensò. Passò e ripassò davanti al negozio, che era una boutique dall'aria lussuosa. Pensò e ripensò a quale avrebbe potuto essere il prezzo e alla fine, stanchissima, se ne andò a passi rapidi, ma zoppicando e col capo basso come faceva sempre, una volta accettata l'incertezza definitiva. Tornò a Lilton quasi guarita, non in piscina ma per il tennis, e fece alcune partite con la signora Rose. Diventarono amiche e una sera la signora Rose la invitò a cena a Roof Garden. La cena fu piacevole. Stando lassù, la donna poteva vedere l'amata piscina blu, dove sarebbe tornata tra qualche giorno, con il sole sfolgorante di mezzo agosto. Tornò completamente spellata, rimangiò il gelato, si sdraiò sul materassino, fece molti tuffi, pranzò con più disinvoltura al buffet e salutò la signora Rose, che partendo la invitò a Nizza. Si addormentò al sole e si bruciò un'altra volta. Sotto il sole e senza quasi poter camminare, andava al mattino al mercato. Poi stava tutto il giorno avvolta in asciugamani inzuppati d'acqua, dopo essersi spalmata di Fargan. Il foil era finito, la farmacia chiusa per ferie. Stava in mezzo a grammatiche inglesi. Ricevette 3 telefonate, di cui una fu uno sbaglio. Sempre aveva sete, allora beveva bicchieri d'acqua. La sera guardava un po' la luna e non ricordava quel sogno, ma si domandava perché mai rivedeva, forse per averlo visto da bambina, quell'aereo con la scritta Thank You. Il giorno 25 agosto venne un grande temporale che innaffiò abbondantemente i suoi vasi di fiori e rinfrescò anche la sua pelle bruciante. Il 27 di agosto la donna si sentì molto meglio e una mattina si svegliò di buon umore e una gran voglia di un gelato in piscina, dove ora avrebbe potuto ritornare con tutte le prudenze del caso. Indossò un pigiama indiano di cotone leggero, i sandali, in una borsa mise le palle da tennis già diventate rosa, il completino da tennis con le scarpe e il tubetto di Fargan. Era molto contenta di andare in piscina. Si spogliò, si distese sul materassino all'ombra e vide che gli spruzzatori non c'erano più sul prato. Sentì che l'aria era cambiata, non aveva più tanta voglia di tuffarsi e fu certa che non avrebbe trovato nessuno con cui giocare a tennis. Infatti chiese e non trovò partner per il pomeriggio né per il giorno dopo. Del resto le sue ferie erano finite e da lunedì sarebbe tornata in ufficio. Federica Fracassi ha letto Sillabari di Goffredo Parise, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.